dallo studio distribuito di Gump Media Production. Franco Solerio, Massimo De Santo. Questo è Digitalia. Pronti ai posti via, siamo di nuovo qui come tutti i lunedì sera. Ci provano con ogni mezzo, Google, la Telecom, ogni inconveniente tecnico succede sempre lunedì sera, ma non riusciranno a fermarci per portarvi, come al solito, la vostra puntata di notizie digitali all'italiana. Dall'EMI Studio Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio. Dallo studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo. Dallo studio romano, Giulio Cupini. E dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi. Buonasera a tutti, buonasera amici miei. Massimo. Ciao Doc, buonasera. Ce l'abbiamo fatta, hai fatto wrestling. È stata dura. Con l'aggiornamento di Audio Hijack Pro. Per la miseria ladra. Ma no, sai, quelli lì proprio trappolano. Mi è comparso questo prompt mentre stavamo parlando e istintivamente ho fatto click. Gli istinti quindi sono quelli che normalmente di beccano i malware, invece questa volta mi sono beccato ristallazione. Il pilota automatico è la cosa peggiore che possa succedere per il pilota automatico del cervello. Quando si dice ma sì, vado tranquillo, faccio. Gli automatismi ti fregano sempre. Va bene, sembra che abbiamo recuperato e bloccato tutto. Abbiamo recuperato, se Dio vuole. Giulio, eccoci. Giulio, sì, funziona. ci sta. ci sono. Io mi immagino i collegamenti internet di Giulio come un lunghissimo tunnel, una caverna lunghissima attraverso cui ogni tanto si vede una luce, ogni tanto lo sentiamo, ogni tanto no, e sta a Roma, pure neanche tanto lontano dal centro. Vabbè. è veramente un mondo amaro ragazzi. L'infrastruttura è quella che è. Va bene, dicono che ha questo è il peso per cui bisogna dire la verità, poi ti censurano con i mezzi, ma bisognerà dirla ancora più forte. Confessa Giulio che tu hai due bicchierini di plastica col filo tirato in mezzo, e quella è la tua collegamento direttamente fino a Sanremo. Esatto. Sentite invece Francesco come si sente bene grazie alla sua fibra. Dicono che arriverà la fibra anche qui a Sanremo nel 2015. Va bene, com'è? Beh, non si capisce. Tutto succede nel 2015. A me anche ad Avellino arriva la fibra nel 2015. Occhio che il 2015 è un anno lunghissimo. è come quando Tim Cook dice arriverà early 2015 il maledetto iWatch. Già adesso sembra che arriverà verso maggio-giugno, perché presto nel 2015, all'inizio del 2015. Presto però, rispetto a Natale, maggio-giugno è molto presto. Prima del dipende. Esatto, qualsiasi periodo antecedente al primo luglio è early 2015. È sempre early, sì. Qui a Milano, ora che stiamo dando in giro la fibra ottica un po' a tutti quanti, appunto Sanremo, Avellino, tornerà di moda il modem, ve lo vi avviso, quindi avremo una connessione ma a 36k. Va di moda andare a cacciare il rame dalle ferrovie, quelle cose lì, perché non andiamo a rubare un po' di fibra ottica ai milanesi? Ci hanno un po' rotto le scatole. Ce la spostiamo. Ce la mettiamo un po' dove ci serve a noi. La mattina gli facciamo trovare sostituita la fibra con un bel doppino di rame di quelli preziosissimi che adesso vanno rubando. Dice, oh. Non so da dove cominciare con le notizie di oggi. Posso cominciare in ordine cronologico inverso, l'ultimissima che è uscita, che sembra che Christian Bale abbia rifiutato il ruolo di Steve Jobs nel film, quello che dovrebbe essere della lunga serie di film annunciati e qualcuno già uscito in seguito alla dipartita di Steve Jobs. Insomma, questo dovrebbe essere quello più quotato anche come cast, come quello basato sulla biografia ufficiale, con un cast non indifferente, con un regista di eccezione. E beh, si faceva affidamento, tanti dicevano beh Christian Bale ci può stare a fare lo Steve Jobs eccetera. Pare, questo è un articolo un po', dice pare che abbia detto di no al suo entourage. Voi ce lo vedete Christian Bale come Steve Jobs? Ma lui è molto carismatico, per cui come personaggio ci poteva stare come interpretazione, però insomma è un po' stiracchiato, considerando anche che essendo uscito un film da poco reinterpretarlo completamente non è facile. Infatti c'era qualcuno che diceva beh allora il secondo in carica è Ashton Kutcher, il film è già uscito, tutto finito. Ah, proprio così, bim bum bam. Io non lo so, sarà il typecasting, sarà quello che vuoi, ma io mi immagino questo film con lui che fa la presentazione dell'iPod, poi a un certo punto guarda fuori, c'è il bat segnale, si spoglia, se ne va, dice ciao ragazzi, c'è bisogno di quella fuori. Guarda, l'ho pensato anch'io, anzi dicevo non erano così veramente. Invece della maglietta nera potrebbe andare direttamente con la la tutina nera. Con la tutina, perfetto. Sì, sì, sì, sì. Io non lo so, non riesco a capire. C'era Noah Weil che aveva fatto, aveva interpretato benissimo Steve Jobs. Dov'era? Nei Pirati di Silicon Valley, qualcosa del genere? Sì, sì. Secondo me è sparato, ci sta veramente da Dio. È un attore di altissimo profilo, di bravura indiscutibile. Non capisco perché la prima scelta non sia ricaduta su di lui. Ha imitato anche Steve Jobs insieme a Steve Jobs. È vero, è vero, è vero. Si è presentato sul palco. Cos'era? Era un qualche keynote, qualche presentazione. Sì, sì, sì. Mi ricordo, veramente. Ma forse problemi di contratto, sai, questi attori hanno magari, che so, un progetto questo qui è della Sony, no? Sì. Magari c'aveva che i vincoli contrattuali con un'altra casa produttrice. È possibile, è possibile. Ed effettivamente, avendo già fatto lo stesso personaggio in un altro film, fare un nuovo film con lo stesso attore che fa lo stesso personaggio sarebbe una cosa un po' mai vista, no? Sì, magari ha ceduto i diritti per 10 anni, queste cose classiche, no? Anche perché poi vai al cinema, sono andato a vedere il film di Ashton Kutcher. Quale? È quello di Ashton Kutcher? Diventa un po' complicato effettivamente. Mi sto un po' perdendo, va bene. Notizie un pochino più tristi e più tragiche. Avete visto la battuta di arresto che ha segnato la sperimentazione della navicella Spaceship 2, navicella della Virgin Galactic, Richard Branson, che sta cercando di andare alla conquista dello spazio con un profilo un pochino diverso dalle altre imprese private che si stanno più cimentando come appoggio alle agenzie spaziali ufficiali. Il taglio di Branson è prettamente turistico, tant'è che Branson ha già venduto, anzi prevenduto, una serie di biglietti a una serie di VIP a un prezzo non indifferente, per offrendo appunto i primi viaggi spaziali. E appunto da qualche anno vanno avanti queste sperimentazioni. La navicella di prova, che viene trasportata da un altro aereo in alta quota e poi viene sganciata, si è schiantata qualche giorno fa nel deserto del Mojave, com'è che si chiama, Max? Tu che coi pelle rossa c'hai confidenza. Mojave, va benissimo. Credo, va benissimo. Sì, si pronuncia come in italiano, mi pare. Con uno schianto tragico, uno dei due piloti ha perso la vita, l'altro è ferito, e una serie di polemiche sono iniziate ovviamente sulla rete e in giro. C'è stata oggi, è uscita questa dichiarazione di questa scienziata, questa tipa. Sì, quella sul carburante, dici, giusto? Sul carburante. Caroline Campbell dell'International Association of the Advancement of Space Safety, secondo la quale fin dal 2007 la Virgin Galactic avrebbe sistematicamente ignorato gli avvertimenti di sicurezza riguardanti il motore della navicella esplosa e il carburante usato, che nel dettaglio pare che sia a base di protossido di azoto, se ho letto bene. E c'è come... Madoc, mi sembra una di quelle cose, di quelle situazioni nelle quali, diciamo, queste dichiarazioni, ma ti pare da 2007-2009 questi stanno portando avanti una sperimentazione, ignorano gli avvertimenti sulla pericolosità del carburante. Sai, poi sono quelle cose veramente difficili da credere, mi sa, ma più che gente che vuole sfruttare l'enorme popolarità. Gli avvertimenti popolarità sul carburante ci possono stare, ma possono essere anche di parte, no? Ti ricordi la diatriba tra Tesla e Edison, con Edison che diceva che la corrente alternata era pericolosa molto più di quella continua e stecchiva gli elefanti presi in prestito dallo zoo per dimostrare che Tesla aveva in mano una tecnologia più pericolosa della sua. Però poi alla fine, più pericolosa ma manipolata con le dovute precauzioni, si è dimostrata molto più vantaggiosa della corrente continua per il trasporto e l'utilizzo domestico. E qui è un po' la stessa cosa. A me è ancora mi ha colpito ancora di più l'aggressione sul Time. È comparso un articolo a firma Jeffrey Klugler che si intitola "Ne abbiamo abbastanza dei voli spaziali con l'approccio amatoriale. Enough with amateur hour space flight". Molto molto duro, con il tema centrale, il leitmotiv è l'incidente della navicella sperimentale è una lezione ed è colpa di questa space hubris, dice, i ricchi miliardari della Silicon Valley per sentirsi più fighi vanno alla conquista dello spazio pensando che sia l'ennesima avventura divertente dove basta buttare miliardi per avere successo, e invece lo spazio è una cosa pericolosa da prendere sul serio. E tutto questo mi sembra assolutamente una grandissima stupidaggine, se posso inserirmi, nel senso che, vabbè, prima di tutto, per quanto riguarda il discorso, dal 2007 dicevamo che è molto facile fare previsioni, cioè, possiamo oggi dire qualsiasi cosa e fra un po' di anni ritirarlo fuori dicendo l'avevamo detto. Sì, non basta dirle le cose, non basta far notare un qualcosa e poi dire è successo dopo 8 anni, dopo 7 anni. Per quanto riguarda il discorso amatoriale, il discorso dell'esplorazione spaziale, eccetera, mi sembra una grandissima così presa di posizione inutile, anche perché la NASA, che sicuramente ha fatto un'esplorazione spaziale non amatoriale, se vogliamo vedere i ricchi come Elon Musk piuttosto che non Richard Branson, gli amatoriali di turno, ma anche lì c'è da discuterne, la NASA eppure ha avuto gravissimi incidenti, 2 navette spaziali su 5 sono esplose con danni enormi, famosissima la frase Houston abbiamo un problema, con la quale una navetta Apollo quasi non stava riuscendo a tornare a terra, e così via. Non è che siano mancati gli incidenti anche a questo tipo di attività. Si tratta di esplorazione spaziale, se non mi sbaglio proprio meno di un mese fa, forse anche meno, Elon Musk citava l'esplorazione spaziale come l'unica cosa nuova che sia veramente di esplorativo, una frontiera, nel senso che, certo, esatto, la Terra ormai la conosciamo più o meno tutta, ci basta guardare con Google Maps, poi è vero che non è tutto identico, non è tutto mappato alla perfezione, ma rimane molto poco di misterioso, l'abbiamo calpestata noi come esseri umani, perlomeno la terraferma quasi tutta. Ci mancano ancora il fondo degli oceani, dove in effetti c'è qualche pazzo visionario amatoriale, chiamiamolo come vogliamo, che fra cui il regista di Avatar, Cameron, se non mi sbaglio, che vanno a esplorare la fossa del Marianne, eccetera, apposta per studiare gli oceani, che è una parte di questo pianeta che ancora ci manca, e contemporaneamente tutto l'esterno, tutto quello che è fuori. Per cui che non un bel mi... po', ringraziando Dio. Esatto, e in questo senso è giusto che un'esplorazione, proprio perché è esplorazione, non sappiamo ancora tutto, ci possano essere dei problemi. Fortunatamente fa parte che esistono dei test. Fa parte del concetto di esplorazione, no? Esatto, possiamo, se vogliamo, abuso forse di un termine, ma definire questi i due piloti come degli eroi dell'esplorazione. Sono certo. Persone che hanno chiaramente, certo, sapevano benissimo di rischiare la vita, di... poter avere dei problemi, erano dei piloti collaudatori, sono uno dei due ancora fortunatamente vivo, fortuna per lui, due persone che sapevano che stavano facendo qualcosa di avventuroso, di pionieristico, e che potevano chiaramente rischiare. Si sapesse tutto fin da subito, sarebbe inutile provare, si prenderebbe, si andrebbe, certo, però non c'è, su questo perderebbe, non c'è anche un po' il fascino. È la però definizione missile... che dà fastidio, no? La definizione di amatori, di imprese amatoriali, alla fine dei conti considerare la NASA gli unici professionisti, o la NASA, le varie agenzie spaziali, i professionisti, e tutti gli altri dei dilettanti, è un po' riduttivo. Certo che arrivano i vari Elon Musk, i vari Richard Branson da imprese diverse, da aziende diverse, va bene che Branson è diventato ricco vendendo dischi, ma questo non vuol dire che con quel capitale non possa mettere su un qualche cosa di professionale, di all'altezza, tant'è vero che non è che si è messo lui sul razzo, ha preso piloti professionisti, ha preso ingegneri che magari hanno lavorato fino all'altro ieri alla NASA, per cui sembra molto un... ma sono diventati amatoriali poi passando per sì loro. Appunto, sembra molto una campagna di stampa, una campagna sì questa cosa dei ricchi che possono che comprano il biglietto, in realtà è una forma di finanziamento, esatto, nel senso che lui dicendo vendo il primo viaggio spaziale, fra l'altro che si parla di una ventina di minuti per arrivare in atmosfera, cioè, quindi appena appena allo spazio, diciamo che abbiamo pucciato il piede in acqua, non siamo in mezzo all'oceano, e questo vuole $250,000, una cifra enorme, però chiaramente ha trovato, se non mi sbaglio, una 70 di persone disposte, sì, a In questo caso sì, a farsi belle, però anche lì con consapevoli di una difficoltà, del fatto che potrebbe non essere così semplice, così bello, così perfetto, perché sono i primi. E in questo modo è riuscito a finanziarsi questa sua ricerca. Io lo trovo invece una cosa molto positiva, che esista sia una persona come Branson da una parte, Elon Musk dall'altra, eccetera, tutti gli altri amatoriali, fra virgolette, che stanno facendo questo lavoro, e contemporaneamente delle persone disposte a investire e quindi in un certo modo finanziare, certo, questa ricerca. Non c'è dubbio. Sono assolutamente d'accordo con te. Tanto si sono i primi, la principessa Beatrice, che è sesta nella linea di successione al trono d'Inghilterra, se l'è già svignata, ha detto va bene, no, io no, basta, grazie. Non è proprio un giretto, non è che ti pigliano a passeggiare. Non capisco questa fretta, questa reazione. Non è che adesso sono morti i due piloti, anzi uno dei due piloti, e pigliano i VIP e li mettono lì a sperimentare la navicella perché hanno finito i piloti. Calma, Beatrice, a due li mettono lì. Sì, appunto, è una di quelle cose che si vede che la stampa ci sta montando il caso. Allora, andando avanti nelle notizie, mi dispiace che oggi non c'è Michele, il nostro androidista, con tutte queste novità da casa, Google, il calendario, il client Gmail. Vi ha mandato l'invito per il client email, quello, ho visto Francesco, forse tu gli avevi chiesto l'invito, come si chiama il... No, allora l'invito ci ha mandato Giulio, che quindi Giulio è qua. Ah, Giulio, adesso è vero, sì, che l'ha ricevuto direttamente da Sergei. Giusto, Giulio? È stato non Giulio, riveliamo le fonti su questo glisso, però sì, sono in sperimentazione da qualche giorno e mi trovo veramente bene. Allora, spiegami un po', perché io, avendo i miei indirizzi mail su Google per domini, come che si chiamano, insomma gli account professionali, quelli a pagamento, sì. I software questi qui non funzionano con gli account a pagamento, non si è mai capito per quale preciso motivo chi paga debba avere meno possibilità di provare le novità di chi non paga, però va bene, lo accettiamo e chiediamo a Giulio qual è il fondamento, il concetto fondante, qual è la differenza con i client abituali. Ma guarda, tra l'altro, come si chiama? Non mi ricordo neanche più il client. Inbox, ecco. Allora, guarda, per quanto riguarda il discorso del client a pagamento di tutta la parte delle Google Apps, effettivamente la policy prevede che non passi neanche per sbaglio una beta da quelle parti, perché di solito viene utilizzato per roba enterprise, per cui anche in ufficio noi di solito abbiamo il protocollo che è tutto abbastanza solido e per evitare problemi non fanno interoperabilità con i servizi, diciamo, customer classici. E per quanto riguarda le mail e questo nuovo sistema, Inbox essenzialmente è un nuovo modo di smistare la posta da parte di Google, nel senso che non diventa più una serie di messaggi che restano tra virgolette morti nel momento in cui tu hai finito di leggerli, ma possono vivere all'interno di una serie di azioni che tu puoi far compiere loro, per cui se il messaggio riguarda un appuntamento piuttosto che un'attività che bisogna fare, puoi, diciamo, inserire nel sistema l'azione di ricordarti quell'appuntamento, quindi la mail diviene quasi un reminder. Automaticamente Google integra con il tuo calendario una serie di attività che possono essere viaggi, prenotazioni, e ne cambia il layout, quindi dandolo più per esteso e dandone un rilievo diverso. Insomma, riorganizza la tua vita elettronica che passa attraverso la mail in modo che non sia tu a dover sempre occuparti di andare a ricercare ogni messaggio, ma far sì che il messaggio cerchi te, forse questo è il concetto, lo esprime meglio, per poter poi portarti a fare le azioni che tu vuoi compiere con quel messaggio di posta. Lo trovo un po' inquietante un messaggio che ti cerca. Beh, questo è stato sperimentato a livello di tecnologia da Mailbox, che era l'applicazione che un pochino ragionava in questi termini. Sì, che sì, infatti già mi piaceva molto. Ma questa... tu lo puoi fare, scusa Giulio, in maniera automatica, cioè tu puoi programmare il sistema in modo che se riconosce all'interno di un messaggio, per esempio, una data per un meeting o cose del genere, senza che tu debba intervenire, te lo inserisce nel calendario? Allora, ci sono indiscrezioni che dicono che questo potrebbe essere possibile in una fase 2. Adesso non lo è. Tu devi comunque impostare reminder per una fase 2 sempre a mano. Però ecco, questa... quindi in realtà, per esempio, nell'applicazione di posta elettronica di Apple, questa integrazione tra i messaggi e il calendario ci sta esattamente allo stesso livello. Sì, però diciamo tu hai nell'applicazione di mail di Apple hai la possibilità di aggiungere al calendario un evento che di solito viene preso con ad esempio una data, un indirizzo. Sì, e lui hai dei format detector semplicemente, sì, esatto. Quando riconosce una data diventa un link attivo, una cosa un po' più superficiale, esatto. Mi sembra di capire in questo caso quella... Esatto, invece può essere un'azione o qualsiasi cosa che vuoi tu, non è legato a un evento in senso stretto, diciamo in senso informatico, ecco. Mm-hmm. Io ho sperimentato il funzionamento di questa cosa da un punto di vista anche dell'integrazione con Apple Mail o in generale di un client IMAP, e vi racconto questa esperienza che ho avuto. Fra l'altro nei primissimi giorni di test, appunto, io ho avuto un invito da Giulio e mi sono messo subito a provare e sperimentare con uno dei miei indirizzi. Ho notato una certa distanza da quello che era l'integrazione con Gmail, banalmente il fatto che marcando come completato una mail venisse completata anche con Gmail. Questa cosa fortunatamente è stata corretta, mi sembra ieri, perché ha iniziato a funzionare. Ho sperimentato però il discorso della mail, che probabilmente è una delle cose più interessanti. Ti arriva un'email e dici: non mi interessa adesso, la devo fare stasera quando torno a casa, quindi ricordamelo alle 20, che è uno swipe e selezioni l'orario e via. Nel mio programma di posta elettronica desktop, quindi nello specifico Apple Mail, la mail mi è sparita, mi si è archiviata, però puntualmente alle 8 mi è ricomparsa la notifica in inbox, mi è ricomparsa anche l'email. È proprio come se mi fosse stata reinviata, perlomeno questa è stata l'esperienza. Okay. L'integrazione quindi è molto buona e effettivamente è una funzionalità comoda. E poi ecco, in ultimo, mi piace moltissimo la direzione che sta prendendo Google in termini di design, anche a livello proprio di piacevolezza estetica nell'utilizzarla mi sono trovato veramente bene, per cui diciamo rivoluzione non c'è niente che non abbiamo già visto in app terza, appunto per prima cosa Mailbox, però chiaramente l'integrazione con tutto il lato Gmail, l'integrazione con l'IMAP che è perfetta almeno dopo questi primi giorni di test, insomma mi piacerebbe che portassero avanti il progetto e diventasse esteso proprio come client di default. È un po' preoccupante un elemento, non necessariamente legato a questo singolo client, ma come oggi tutta l'innovazione ovviamente arriva da queste grosse aziende. Passato il periodo di euforia per la condivisione, per i social, per le API pubbliche, le interfacce di programmazione pubbliche, oggi hanno capito tutti che se vuoi fare un business devi creare qualcosa di chiuso e non puoi aprirti. Si finisce per creare nuovi e nuovi e nuovi servizi sempre di stampo proprietario, chiuso: Facebook, Google Plus, Twitter, che è nata aperta, poi ha dovuto chiudere le porte per riuscire a sperare di fare business o quantomeno per attirare investitori nell'ottica di proporgli faremo dei soldi, dobbiamo chiudere perché sennò chiunque può sfruttare il nostro scrigno di dati. Sono rimasti a pilastro della rete alcuni elementi che sono primigeni della rete, che sono i protocolli di base dell'email, del web e forse poco altro, perché poi va bene i terminali, diciamo le terminali a riga di comando, ma poco di più. È sparito tantissimo di quelli che erano i protocolli aperti, almeno dall'ampio utilizzo. L'email era un qualche cosa che resisteva, ultra interoperabile. Chiunque può scrivere un client, chiunque può prendere il documento RFC, studiarselo bene e creare un client completamente interoperabile con gli altri, con delle novità nell'utilizzo. Oggi con questi nuovi client e queste nuove interpretazioni da parte dei giganti come questa di Google, l'epitome, si vede da una parte che effettivamente l'email ha un po' segnato il suo tempo. Oggi abbiamo bisogno di tutta una serie di caratteristiche dal nostro sistema di interazione e di gestione delle mail, che quando l'email è stato pensato non erano importanti e quindi non sono incluse nel protocollo. Però per costruire queste nuove novità non si procede estendendo il protocollo, mettendosi tutti intorno a un tavolo dicendo: questa qui è la mia proposta di estensione, creiamo un nuovo documento, una nuova RFC e vediamo, tutti possono contribuire a fare un client dove si può posporre di un giorno l'email, per cui il server lo mette da parte, poi me lo rimette nell'inbox dopo un giorno. No, unilateralmente Google dice: questo è il client, usatelo, tanto funziona. E ovviamente se tu su un altro computer, su di un altro produttore, di un'altra cosa, o se tu vorresti, non lo so, anche tu partecipare ed estendere questo meccanismo creando un tuo client con le stesse caratteristiche, interoperabile, ma ancora migliore, a questo punto non puoi più, perché ti manca un pezzo della ricetta della salsa magica di Google. È brutta questa cosa, è molto molto brutta, e potrebbe iniziare a succedere anche per l'altro protocollo fondante di internet, cioè per il web, per l'HTTP. In tanti ci hanno già provato, per il momento c'è stata una grossa resistenza e si è sempre tornati verso le standardizzazioni. Però vi ricordate quando si diceva: ecco, Microsoft abusa della sua posizione di dominante per fare il cacchio che vuole, per estendere in maniera proprietaria, gli altri o si adeguano o ciccia. Poi Microsoft ha perso la posizione dominante e si è visto lo stesso pericolo quando si sono separati, quando si sono forcati i codici sorgenti di WebKit da una parte e quello di Google, non mi ricordo più, dall'altra come si chiama. Stessa cosa per il protocollo Speedy, che vedo Franz che mi cita nella chat, no? Stessa cosa, c'è queste spinte propulsive iper dettate, ovviamente guidate dalla necessità di guadagno, di essere cosa, rischiano un po' di smembrare la natura di quella che è stata la rete fin dall'inizio. Non trovi, Max? Poi tu che sei professore di reti, In realtà infatti stavo per chiederti urgentemente la parola. Innanzitutto una piccolissima precisazione, no? Il mondo di internet fin dalla sua concezione originale ha visto i protocolli di rete come la parte assolutamente, diciamo, da condividere in maniera trasparente, mentre le applicazioni costruite con quei protocolli in effetti fin dall'inizio hanno goduto, diciamo, di una certa libertà reciproca, no? Il protocollo è proprio l'insieme delle regole che governa lo scambio dei messaggi. L'applicazione che tu ci puoi costruire intorno con una logica client server piuttosto che peer to peer, viceversa, diciamo, comunque consta anche di quello che tu poi fai con i tuoi pezzi di software, passatemi un po' questa affermazione un pochino rozza, diciamo, sul lato sulle tue macchine, sul lato client e server della baracca. Chiaramente Google, se ho capito bene, io poi, no, diciamo, non ho ancora accesso, diciamo, a questa sperimentazione, comunque non ho approfondito le caratteristiche tecniche, se ho capito bene, appunto, qui siamo in presenza sostanzialmente di un nuovo tipo di client, quindi il protocollo non è alterato, sono i soliti protocolli standard di rete, mentre invece le funzionalità aggiuntive sono dovute al dialogo tra il sistema, no, l'ambiente costruito da Google in, esatto, termini di servizi, perché Google appunto è da tempo che porta avanti questa disponibilità, no, di servizi che sono comunque sempre stati erogati direttamente da loro, no? Risiedono sui loro server, sono sempre stati tra virgolette di loro proprietà, sia pure con un approccio di diffusione molto aperto e puntato spesso sulla disponibilità gratuita e via così. Ma comunque, insomma, c'è questo ambiente, questo ecosistema costruito da loro fondamentalmente, e quello che ti stanno dicendo, come sempre, guarda, se tu scegli il nostro client e poi i nostri servizi, puoi ottenere delle cose. Non è però una questione di client, Max. Più. Non è una questione di client, è una questione, sì, di integrazione client-server, perché questo che tu, esatto, chiami client, in realtà non lo puoi appoggiare poi a un qualsiasi server di mail standard di qualsiasi altra. Poi il client presuppone anche un server esteso, un lato server esteso, poi è tutto nascosto, è tutto integrato, è tutto... Sì. No, ma forse ti è sfuggito il passaggio che avevo fatto. Esattamente questo, cioè loro hanno costruito un ecosistema, diciamo lato server, dai, per capirci. I protocolli che vengono utilizzati per scambiare i messaggi sono sempre quelli standard, se ho capito bene. Cioè non è che hanno sviluppato un nuovo protocollo di posta elettronica in maniera proprietaria o cose del genere. Google usano sempre l'SMTP benedetto. No, assolutamente. Già il client precedente parlavano con i server di Google Proprio all'inizio. Parlavano già il client precedente di Google, parla con il server attraverso delle API differenti, private, tant'è vero che poi tu puoi attivare un'implementazione SMTP, tra l'altro neanche particolarmente aderente allo standard, con cui un mucchio di client di terze parti si sbattono di adattarsi per riuscire a funzionare. Stiamo confondendo SMTP con IMAP in questo caso. E effettivamente SMTP. Sì, sto parlando di IMAP. Per quanto riguarda la lettura, IMAP è un'altra cosa, ragazzi. Scaldami l'intervento da professore. Esatto, infatti stavo entrando un attimo. Parliamo una volta. Il punto della situazione. Il professore spiega le cose proprio elementari. La posta elettronica è costruita in questo modo. Originariamente è stato sviluppato questo protocollo, Simple Mail Transfer Protocol, che è un po' l'assatura portante, e già un'applicazione, sto parlando proprio di quelle che si ritrovano nell'RFC, quindi che, come dice Franco, sono sostanzialmente diciamo open source, vai sul modello di internet, no? Nel senso che le specifiche sono disponibili per tutti. Questa applicazione di posta elettronica è di tipo client server, quindi c'è una parte che è il client, che è quella che tipicamente fa la parte attiva, quindi che invia la mail, e c'è una parte che è il server, che è quella che riceve la mail e che gestisce, per capirci, il concetto di casella di posta e ti consente di leggere la posta che arrivi. Questa era l'origine. A partire da questo poi si sono sviluppati quelli che sono stati chiamati i cosiddetti client di posta elettronica. Qui c'è una confusione terminologica, perché a questo punto non stiamo parlando più del client server dell'applicazione di posta elettronica, ma piuttosto di una, diciamo, interfaccia sofisticata verso l'utente finale. Per far dialogare questi client con i server di posta elettronica si sono sviluppati dei protocolli aggiuntivi, in particolare due sono molto famosi, il POP, Post Office Protocol, e quello di cui stavamo parlando un attimo fa, che è l'IMAP o IMAP, che è Internet Message non so che protocol. Questi sono dei protocolli, come si dice, di servizio, cioè che sono, diciamo, a lato dell'applicazione principale di posta elettronica, che continua a funzionare con l'SMTP, e servono per dare delle funzionalità aggiuntive. In realtà sono nati proprio per questo, in particolare sostanzialmente per gestire il fatto che la posta che arriva sul server poi venga in qualche maniera gestita da te utente in modo più comodo. Il POP faceva proprio solo il trasferimento dei messaggi, quindi si prendeva i messaggi sul server e se li sportava, e quelli invece l'IMAP, scusatemi, ho preso troppo la piega del professore, l'IMAP ti dà un certo controllo sul server. Questo comunque lo dicevo per dire, appunto, con Google questa ossatura generale non è cambiata. Quale? Quello che cambia è il fatto che, siccome Google ha una serie di servizi integrati, tipo il calendario, tipo eccetera eccetera eccetera, tutto quello che abbiamo nominato, sfrutta questi servizi integrati dal suo lato server per darti delle funzionalità in più. Allora, quello che non è cambiato è l'interazione con gli altri server, per cui protocollo SMTP, trasporto della posta sull'infrastruttura. Per forza, se no non ti potresti scambiare, se no addirittura andresti in un Benissimo, mondo Max. In cui la tua posta non può essere Max, letta. Max, non ti abbiamo interrotto nel tuo pippone da professore, ora ci lasci. Vai, a parlare. Grazie. Quello che è cambiato molto è sul lato client. Oggi il discorso era su questa innovazione nell'utilizzo da parte della gente del servizio posta elettronica, e quello che è sempre stato abbastanza in forse e oggi lo diventa in maniera ancora più estrema è questa interpretazione da parte di Google del meccanismo di diffusione, di scaricamento della posta elettronica da parte dei suoi utenti. Il già da tempo lungo Google non fornisce di base un servizio di POP né di SMTP. Normalmente Gmail nasce come interfaccia web dove c'è un lato client che in realtà è un'applicazione JavaScript che funziona per metà sul browser e per metà su un server web, che dialogano attraverso un protocollo proprietario con i server di posta elettronica di Gmail. Lì non c'è né POP né IMAP, scusa. Niente, li puoi attivare, li puoi attivare liberamente. Fin dai primi tempi di Gmail tutti gli sviluppatori di client di posta elettronica si sono sempre lamentati, e spesso anche gli utenti, perché l'implementazione dell'IMAP di Gmail è completamente fuori standard, anche per un motivo fondante: Gmail si basa sul meccanismo delle etichette, mentre tutti i servizi di posta elettronica dell'universo si sono sempre fondati su una impostazione per caselle che è molto differente. Un messaggio può stare in una sola casella alla volta, invece sui server di Gmail un messaggio può avere un milione di etichette diverse. Allora, la implementazione di Google di IMAP è sempre stata un po' fuori standard per questo, e i browser hanno sempre fatto un grande casino. Vedi i drammi di Apple Mail quando era appena uscito con, come si chiamava, Mavericks, la versione del sistema operativo precedente a quella attuale. Nessuno capiva più niente, sparivano i messaggi perché il client pensava di spostarli, mandava un comando IMAP a Google lo interpretava in una maniera diversa e andava tutto in botta. Oggi siamo ancora più nell'estremizzazione, perché oggi il dialogo tra i server attuali di Google e il client che in questo momento hanno distribuito ed è più o meno sperimentale eccetera presuppone delle ulteriori funzioni che non sono esposte attraverso nessuna interfaccia di programmazione e nessun protocollo a nessun altro client di terze parti. Per cui, per aggiungere delle nuove funzionalità, certo che il protocollo fondante dell'email, quello server su server, quello che tu insegni come professore, quello lì è invariato per forza, sennò Google si ritaglierebbe in un angolino e direbbe: voi potete scrivere solo ad altri utenti di Gmail e agli altri no. Ma quello che cambia è nell'ecosistema. Dov'è che può fiorire l'ecosistema? L'ecosistema può fiorire dove tante persone, tante terze parti possono costruire nuovi client sempre diversi eccetera, ma finché restano tutti interoperabili con delle aggiunte che restano pubbliche, tutti gli altri possono continuare ad arrampicarsi uno sulle spalle degli altri. Quando uno dice invece faccio da me, e lo può fare anche grazie alle dimensioni del suo servizio, e beh, gli altri non possono più fare niente. Benissimo, la tua innovazione è fighissima, però a un certo punto useremmo tutti la tua perché non è più interoperabile con gli altri e nessun altro si metterà ad arrampicarsi sulle tue spalle. Questo era quello che volevo dire. Francesco, volevi aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere qualcosa, nel senso che alla descrizione in realtà di come funziona la posta elettronica del professore mancava secondo me un passaggio fondamentale che è il punto d'unione fra quello che diceva Max e il prof, ovvero in tutto questo spostare di email, di messaggi, quindi di SMTP, IMAP, POP e compagnia cantante, c'è un qualcosa, ovvero il messaggio stesso. Ci sono una parte fondamentale che è tu, ovvero a chi deve essere mandato il soggetto, e poi c'è un'area testo nel quale i messaggi originali erano solo testo, poi pian piano ci hanno aggiunto la possibilità di mandare dell'HTML o del testo RTF, cioè come quello di Word, per capirci in maniera molto semplice, aggiungerci delle parti crittografate in vari formati, aggiungere degli attachment inline, quindi immagini che si possono vedere, compagnia. E sono usciti una marea di protocolli, ricordiamo la difficoltà di comunicare di Outlook con versioni Outlook Express, sicuramente, forse sì, anche Outlook 97 con il resto del mondo, per motivi simili, di quello che hanno costruito sopra, che era lo stesso discorso di Gmail. Da questo punto di vista poi chiaramente sta agli sviluppatori dei vari client, siano essi web, siano essi desktop, siano essi di qualsiasi cosa succederà in futuro, sviluppare anche il supporto per questi tag, chiamiamoli così, per queste estensioni che possono essere dentro gli header, possono essere dentro il messaggio, quali la ricevuta di ritorno, quali delle particolari, i tag, perché comunque i tag prima di Gmail li supportava già Thunderbird, in un modo completamente diverso all'interno degli header e non all'interno delle cartelle. In tutto questo si pone la novità più interessante, secondo me, di Inbox, una delle novità più interessanti, ovvero una serie di protocolli pubblici che Google ha dichiarato come funzionano e ha pubblicato sul sito developers.google.com, e che quindi tecnicamente anche lo sviluppatore di Apple Mail, di Outlook o del programma che usi tu, cioè, sul tuo server della tua webmail personale, Squirrel Mail, qualsiasi cosa voglia usare, può implementare. Questi cosi sono dei snippet di codici scritti in microdata o JSON-LD, insomma due formati tecnici, poi è tutto spiegato molto bene, che permettono di definire delle azioni o degli highlight. Le azioni sono tipicamente delle cose che succedono quando uno riceve una mail, ad esempio un RSVP, l'aggiunge al calendario, accetta un'amicizia. Quello che diceva prima Giulio è esattamente questo: se un'email di un calendario contenesse l'istruzione dell'azione aggiungere al calendario, ti troveresti direttamente il bottone. Per cui non è Inbox e anche Gmail che si è portato dietro questa modifica, giustamente, che ha questo tipo di mancanza, è il calendario che ancora non invia le email in questo modo, sia quello di Google sia quelli esterni. Le highlight sono ancora più interessanti, ovvero sono delle azioni in realtà predefinite che possono essere usate per gestire un ordine, l'invio di un pacchetto, una prenotazione di un albergo, un volo, eccetera. Per cui se la tua email contiene una di queste cose e la indica aggiungendo questa estensione, il client di email, in questo caso Inbox, e anche le versioni nuove di Gmail, ma ripeto, non vedo perché no Outlook, ti mostrano una cosa che ho scritto: hai prenotato l'albergo, questo è l'anteprima, invece di metterti, che ne so, il soggetto della mail. Questa è una novità secondo me molto interessante di Inbox, e la cosa interessante è che è stata pubblicata, perlomeno nelle specifiche, anche in modo dovuto, perché sennò non sarebbe stato interoperabile con il resto dell'email, al pubblico. Questo è interessante. Per cui le modifiche, cioè le novità, sono su due fronti: uno nel contenuto del messaggio, dove hai queste azioni attivabili e che hanno, mi dicevi, dei protocolli pubblici da parte di Google, e poi delle novità che però non sono tantissimo novità, perché sono assomigliano a quelle di Mailbox, dove hai la possibilità invece, lato server, di nascondere l'email e di fartela mostrare questa sera quando torni a casa o robe del genere, capito bene? L'idea fondante di Inbox è quello di evitare la lista di email, che poi è la frustrazione che hanno tutti quando apro la casella email: ho 100 email, di queste 90 badge, sono spam, 9 sono newsletter a cui mi sono iscritto, non voglio disiscrivermi perché ormai magari prima o poi trovo la roba interessante, e una è interessante, una mail vera ma è persa in giro. Quello che già ha iniziato a fare Gmail prima con i vari tab, quindi le mail sociali, le mail di aggiornamento, eccetera, radunando quindi email per contesto e lasciando nella inbox prioritaria, la inbox principale, solo le mail che riteneva più utili per il tuo lavoro, per la tua vita quotidiana, quindi per la tua casella. Inbox ha tirato ancora, sta tirando, perché è un prodotto giovane, veramente vedo evoluzioni giornalmente, sta tirando sempre di più questo concetto in un qualcosa che sia non più la mail come un flow di notizie come Twitter, se volete, ma un qualcosa di ordinato e rimischiato secondo i tuoi gusti e le tue necessità, un po' come la timeline di Facebook. Ok, questa è la similitudine che mi viene in mente. Sì. Se posso consentirmi un pensiero, almeno per me, finale. È evidente che la posta elettronica è stata sempre uno dei pilastri, no, della vita elettronica che internet ha introdotto nella nostra quotidianità, e quindi questo grande fervore nel cercare di svecchiare il servizio, di introdurre delle grandi novità, è segno, no, che siamo arrivati un po' forse al capolinea di quello che era la posta tradizionale, e si cerca sempre di più di in qualche maniera integrarla in maniera più fluida in tutto quello che è il resto del sistema, dell'ecosistema digitale nel quale stiamo vivendo. L'osservazione di Franco sul discorso, diciamo. Scusa? Mi sentite? Adesso sì. Ti sento bene. Sì, qui sei arrivato, c'è stata un'interruzione di qualche secondo. Non ti ho sentito per qualche secondo. Prego, Max, scusa. Oh, sorry, volevo, dicevo, agganciarmi con la tua osservazione più generale. che condivido in pieno, cioè quella che siamo in un momento di grande cambiamento. Se questo cambiamento verrà governato da delle soluzioni chiuse di tipo proprietario, andremo in una certa direzione. Se invece questo cambiamento, sempre parlando della posta elettronica, manterrà quella che è stata la sua, diciamo, la sua firma originale, cioè di essere comunque disponibile per una utilizzazione creativa e concorrenziale che ruota intorno a un servizio fondamentale. Questa seconda direzione è quella nativa di internet, è quella che ha portato poi al grande successo della rete stessa e al proliferare di infinite soluzioni. Adesso è un momento molto delicato, no, da questo punto di vista, perché è chiaro che i giganti come Google, che hanno potuto che hanno anche gli strumenti per costruire un proprio ecosistema, no, che fonda il cambiamento della posta elettronica sulla disponibilità di servizi che solo loro poi possono offrire, diciamo, è chiaramente un punto di svolta abbastanza delicato. Io mi aggiungo soltanto per dire una cosa, poi magari chiudiamo l'argomento. Un'altra delle cose che cambiano su Inbox è l'algoritmo di gestione della priorità della posta. Questo è anche interessante, nel senso che di solito parliamo spesso di quello che è il ranking dei messaggi sui social, da Facebook a quello che sembra sta per introdurre Twitter. Anche sulla posta sembra che Google voglia fare un ragionamento del genere, ristudiando probabilmente le tue abitudini messaggistiche, da una maggiore o minore priorità a tutta la parte della posta che non è strettamente legata a comunicazioni personali, quindi più commerciali, nel mettertela in rilievo all'interno del tuo feed. Questo bisogna vedere come evolverà in termini proprio di sviluppo anche nella proposizione di questi messaggi, perché se già la parte delle tab che citava prima Franz è stata un cambiamento importante anche per chi faceva marketing online, per via del chiaramente la mancanza di immediatezza per alcune delle comunicazioni, questo tipo di priorità rende le comunicazioni uno a uno molto più complesse, quindi ci vuole un tipo di rapporto con il consumatore più importante. Ad esempio un algoritmo che in questo momento è evidente non funziona ha portato a farmi vedere in prima, diciamo, come messaggio più importante una mail di Alitalia, e mi ha tolto completamente dal feed una mail di Ryanair. E voilà, e siamo finiti lì. E allora passa prima l'email di quello che paga di più. Capisci? Ci sono dei pericoli non indifferenti in tutto questo. L'email ha avuto, è vecchierella, e come tutti i vecchierelli è durata un sacco perché aveva qualche cosa da dire. E credo che la caratteristica che ha fatto più la fortuna dell'email sia la semplicità di utilizzo. Anche la persona che non ha mai utilizzato internet, lo metti di fronte a un client di posta elettronica, gli dici questo è il tuo indirizzo, dallo a chi vuoi, tutti quelli che gli scrivono trova le email in una lista, quando vuole scrivere mette l'indirizzo oppure fa un reply e sa che quel messaggio arriva. Certo, oggi il problema è che nel tuo inbox ce n'hai milioni di mail invece che averne 5 o 6, per cui devi avere, e ci stanno questi tentativi di fare ordinare, rimandare, cancellare, rimbalzare eccetera, però c'è il rischio di rendere tutto molto ma molto più complicato per il neofita. Non lo so se sia il caso di fare qualche cosa del genere o se bisognerebbe muoversi con più prudenza, perché lo ripeto, credo che sia una delle caratteristiche fondanti dell'email l'approcciabilità anche dal totale illetterato della rete. Va bene, staremo qui ad osservare, ma sono questi poi gli argomenti che mi interessano di più, non tanto i protocolli e i non protocolli, quanto quelli che sono le direzioni che prendono, come le persone hanno utilizzato i servizi, che cosa ha fatto la loro fortuna e cosa può cambiare in meglio o in peggio su questi da questo punto di vista. Qualche minuto per ringraziare i produttori esecutivi. Max, hai sotto mano il PDF dei produttori esecutivi e voglio di ringraziarli tu? Sempre, aspetta un secondo, ce l'avevo proprio qui, l'avevo già aperto. ma devo confessare che non ce l'ho sotto mano. Non Sorry. Importa, produttori esecutivi. Pronti, pronti. Dai, giù. Allora, abbiamo Fabrizio Rubino con una donazione singola, il nostro perpetual executive producer da 3 euro che ringraziamo. Poi abbiamo le nostre donazioni ricorrenti da 3 euro. Partiamo con Danilo Cova, Christophe Sollami, Roberto Graffi, Fabrizio Poggi, Alex Ordiner, Davide Evangelisti, Matteo Arrighi, Cristiana Marca, Michele Olivieri, Antonio Turdo e Roberto Esposito. Grazie, amici. Ricorrenti da 3 euro mese. Grazie. Grazie mille. Abbiamo poi una donazione singola da 4 euro con Matteo Saran, che ci manda anche un messaggio. Ho appena finito di guardare la prima puntata di Black Mirror, da voi consigliato qualche tempo fa. Che dire, viva il primo ministro. Attendo in trepido altri consigli su cosa vedere e leggere, e perché no, ogni tanto anche su cosa ascoltare. Arrivano, arrivano i gigini del giorno. Perché no? Tranquillo Matteo, poi professore di solito con queste cose, lette o visioni, ne film sa, roba del genere. Sa. Non manca mai. Passiamo poi alle donazioni ricorrenti da 5 euro mese con Francesco Mocellin, Antonio Simonetti, Adriano Guarino, Matteo Carpentieri, Luca Siciliano Viglieri, Pier Francesco Urbano, Matteo Molinari, Maria Rita Biagini, Riccardo Done e Mauro Schiavon. Grazie a tutti. Grazie di cuore ragazzi. E ora il segmento caldo, quello dei grandi produttori, con una donazione singola da 10 euro di Andrea De Girardis. E le donazioni ricorrenti da 10 euro al mese di Andrea Giovacchini e Fabio Bianchi. Questi i nostri grandi produttori di questa puntata che ringraziamo. E poi il lead executive producer di questa puntata con una donazione singola da 20 euro, Paolo Bernardini, che ci allega anche un messaggio. Ciao, eccomi di nuovo con una donazione. Potete linkare questo mio fotoblog alla donazione? www.borghi-italiani.it. Certamente. Grazie. Paolo, certo, e ci mancherebbe. Grazie di cuore ai produttori esecutivi. Cosa sono i produttori esecutivi? Velocemente, Digitalia non è gratis, a noi costa denaro e tempo, tantissimo tempo da dedicare sia alla registrazione sia a tutto quello che gira intorno, rimanere informati in settimana, studiare, cercare di capire. Ci mettiamo del vero lavoro, come tutti i lavori, e beh, merita di essere ricompensato. Non so quanti di voi lavorano e quanti di voi lavorano gratis. E allora c'è questo gentleman agreement. Digitalia è distribuito gratis come trial gratuita per chiunque, ma se siete in grado di provvedere, di pagare per il vostro intrattenimento e per la vostra informazione, e magari lo fate già attraverso la rivista, l'abbonamento, Skype, Digitale Terrestre, quello che è, vi chiediamo di contribuire attraverso una donazione volontaria. L'entità e la ricorrenza, la ripetitività, la decidete voi attraverso meccanismi semplicissimi: PayPal, bonifico o Bitcoin. Trovate tutte le istruzioni sulla home page di Digitalia. Noi ne abbiamo veramente bisogno per portare avanti, come abbiamo fatto in questi 4 anni, questa cosa interessante che credo che arricchisca la vita di noi che la facciamo, ma anche di ognuno di voi. Due belli articoli usciti questa settimana, entrambi sul Financial Times, quello che forse mi hanno colpito un po' tutti e due. Uno universo Facebook, uno universo Google. Visto che abbiamo appena parlato del client di email di Google, possiamo proseguire su quella linea, e mi riferisco ovviamente, Francesco, non so cosa ne pensi, dell'intervista a Larry Page, cofondatore e attualmente CEO di Google. Con questa visione non saprei neanche come definirla del mondo, questa visione. Noi abbiamo una missione, abbiamo avuto fortuna attraverso Google, abbiamo un capitale illimitato, non dobbiamo fermarci a migliorare quello che facciamo, ma dobbiamo spaziare e dobbiamo propiziare l'avanzamento del genere umano in tutti i modi possibili e immaginabili, senza guardare in faccia a nessuno, neanche alle eventuali, tra virgolette, casualties di questo progresso. Cosa ci hai letto, Francesco? Ti è piaciuto? È stata un'interessante lettura. Ha toccato veramente tanti argomenti. È un Larry Page sicuramente maturo, che cerca di darsi una giustificazione in quello che è il suo lavoro. Mi è sembrato appunto una specie di tentativo di crearsi un'immagine adulta, ecco, forse sentiva questo bisogno di dare una giustificazione a Google e al suo operato. Certo, tocca in questa intervista delle tematiche molto interessanti, molto positive. C'è un lungo discorso su quelle che sono le startup e di quello che sono i soldi che vengono spesi in ad esempio applicazioni che rendono un sacco di soldi in pochissimo tempo, ma che fondamentalmente non durano, non cambiano veramente la vita delle persone. E lui dice che invece la missione di Google è quella di cambiare l'esistenza, cambiare la vita in meglio. È chiaramente un qualcosa di estremamente molto ambizioso anche per una persona come Larry Page, pur avendo tutti quei infiniti, come dice lui, soldi a disposizione. Non so, voi altri cosa avete letto da questo articolo? Non lo so, il concetto, i concetti di necessità di chi impegna del capitale in tecnologia, di impegnarsi di più nella trasformazione, nel miglioramento di condizioni di vita, neanche nel miglioramento necessariamente, nel portare avanti l'evoluzione del genere umano è interessante, no? Dice oggi è una situazione particolare che non abbiamo visto, sono situazioni uniche, situazioni in cui il genere umano può fare dei salti avanti non indifferenti. La situazione attuale è che c'è un mucchio di gente che arriva nella Silicon Valley e in altre zone adesso nel pianeta, ma specialmente qui da noi, perché vede facili guadagni e quindi arriva tanto capitale. Il problema è che questo tanto capitale viene investito in delle situazioni che poi alla fine al genere umano non danno molto. Certo che se tu inventi la nuova chat segreta, quella che ti permette di esporre il dire che il tuo collega di ufficio puzza senza venire allo scoperto in pochi mesi, raggranella un numero di utenti enorme e il tuo investimento magari è decuplicato, però alla fine dei conti per il genere umano questo ha ben poco di trasformativo. E dice dovremmo invece impegnarci, e noi lo stiamo facendo con i nostri vari progetti, Google X, i vari moonshot, i vari tentativi strani, i progetti fringe, di fare qualche cosa di più, di porre di più il segno. Quello che però mi ha colpito, questo sì, lo capisco, è interessante, è nobile, in realtà nobile poi fino a un certo punto fatto con questa ottica. Quello che che mi ha colpito di più e che mi ha preoccupato è questa quasi miopia, cioè questa voglia di portare avanti il genere umano per la voglia di tecnologia e la voglia di futuro fine a se stessa. Vediamo se riesco a tradurre i due o tre punti critici, secondo me, di tutto l'articolo. Un perenne ottimista quando si ha a che fare con la tecnologia, Larry Page dice che tutto questo deve cambiare, tutto quanto. I miglioramenti rapidi nella intelligenza artificiale, per esempio, faranno in modo che i computer e i robot saranno in grado di compiere qualsiasi lavoro. E messi di fronte alla possibilità di smettere di lavorare, 9 su 10 persone non vorranno fare quello che stanno facendo oggi. E quindi è un bene. E allora l'intervistatore riflette e dice: sì, ma che cosa dobbiamo dire delle persone che così perderanno il lavoro? Quando il lavoro, quando i mestieri saranno resi obsoleti dalla tecnologia, non ci sarà nessun motivo di perdere del tempo ad avere a che fare con essi, con questi lavori, dice Page. L'idea che chiunque debba lavorare quasi come uno schiavo e fare qualche cosa così in maniera inefficiente, in modo che continuare a fare le cose in maniera inefficiente, in modo che tutti possano mantenere il lavoro, e beh, secondo me questo non ha nessun senso, questa non può essere la risposta giusta. Ecco, questo secondo me è un pochino di cecità. Sì, va bene che il futuro andrà in quella direzione, ma accelerare e dire che più che cecità semplicistica, 9 mestieri su 100 saranno inutili perché saranno fatti dal computer e quindi la gente sarà felice di non lavorare, non lo so, a me sembra la miopia della persona che, finito di studiare all'università, ha avuto un successo bestiale, ha avuto delle idee geniali, un'esecuzione geniale, si è ritrovata coi miliardi, ma non è mai andata in fabbrica a Termini Imerese. Perché se tu vai dall'operaio di Termini Imerese e gli dici: guarda che da gennaio un robot farà il tuo computer, puoi stare tranquillo a casa a giocare la schedina del Totocalcio, quello non sarà tanto sollevato, ma sarà un pochino preoccupato e magari incazzatino per il fatto. E questo tipo di ragionamenti detti da una persona che ha la capacità, il denaro e la voglia, l'ambizione di mettere in moto questi cambiamenti, a me preoccupa un pochino. Non so voi cosa ne pensate. A me preoccupa molto, perché tu sei stato, hai fatto una scelta di aggettivi molto soft, ma in realtà uno che dice che in realtà lui va anche oltre, no? Perché sollecitato dall'intervistatore a riflettere sul discorso della perdita del lavoro conseguente all'innovazione, lui dice vabbè, ma tu non puoi, un po' come il discorso del solito genio uscito dalla scatola, dice una volta che hai trovato una direzione di miglioramento dell'efficienza tu non puoi tornare indietro. Ma questo tipo di ragionamenti è appunto evidentemente miope, cioè non guarda la realtà nel suo complesso. Su un pianeta sovrappopolato come il nostro, in situazioni nelle quali diciamo il lavoro materiale è l'unica cosa che dà una dignità, no? È chiaro che ci sono gli accessi dall'altro lato, la schiavitù del lavoro, le fabbriche con i cinesi, certo, che ci muoiono dentro, eccetera, eccetera. No, quindi non è che sto dicendo che è tutto oro quello che luce, ma dall'altro lato io ricordo una conversazione con il capo del dipartimento di informatica di Nuova Delhi, in cui lui diceva: noi facciamo portare le sacchette di cemento nella costruzione dei palazzi a spalle dalle persone, perché non ci mettiamo gli ascensori, che pure conosciamo benissimo, perché altrimenti questi rimangono tutti disoccupati in mezzo alla strada e muoiono di fame. Certo. Allora a un certo punto un bilanciamento, no, tra l'esigenza di progresso e di sviluppo della tecnologia e il prendere coscienza di una realtà complessa nella quale mica puoi, domani mattina puoi dire ok, fanno il lavoro tutti i robot e noi, e che facciamo noi? Mi sa tanto, no, che è la direzione nella quale poi si va a dire vabbè, siamo troppi, perché tanto non facciamo niente, è un disastro. Allora, che facciamo? Disastro. Il 90% della popolazione, sì, certo, lo cancelliamo, tanto non serve. Dice, certo, mettiamo tutti i messaggi. I computer faranno le case, i robot faranno le case, non c'è motivo per cui le case costino come oggi. Le case dovrebbero costare un millesimo di quello che costano oggi. Sì, va bene, perfetto. Questo in realtà sono ragionamenti molto, molto pericolosi, che guidano già, che oggi sembrano sparati da uno che ha voglia di vedere il futuro, che è in una posizione pericolosissima, lo ripeto a mio avviso, ed è tipico di chi vede il futuro come futuro della tecnologia, ma non ha nessuna capacità di vedere il futuro come futuro del genere umano, non ha nessuna comprensione dei meccanismi di funzionamento di una società. Ed è ovvio, è anche difficile, come per noi è difficile capire, per l'esempio di Max, perché in India non mettano gli ascensori ma facciano andare, ma è ovvio perché quegli squilibri sociali che introduci sarebbero devastanti, perché i muratori restano senza lavoro o ne assumi solo la metà perché non servono, la metà dei lavoratori senza lavoro non vanno più al bar a prendere il caffè, la metà dei bar chiudono perché non hanno più lavoratori che vengono a prendere il caffè, la metà è una catena enorme quando tu introduci questi squilibri, per cui prima bisognerebbe capire come far evolvere la società lentamente, gradualmente, e poi studiare e introdurre le novità tecnologiche che rendono possibili questi cambiamenti, se no è veramente è una roba assolutamente disastrosa, e lo vediamo già oggi. Guardate che anche perché poi le decisioni su queste cose le prende sempre chi c'ha il coltello dalla parte del manico, no? Certo, la decisione di introdurre una certa tecnologia in una certa direzione la prende sempre chi ci fa profitto. Sono pericolosissimi questi discorsi, perché uno che ha la possibilità di cambiare le cose, il capitale, la voglia e il ghiribizzo, la voglia, l'ambizione, ha un'altra dalla sua parte. Nel momento in cui si presenta al pubblico, alla gente, attraverso il politico che cambia le leggi o direttamente lui al pubblico, e dice le case dovrebbero costare un millesimo di quelle che costano oggi, si solleva un beato di approvazione. Ci saranno 40 muratori, impresari, eccetera, che tremano e protestano, ma un milione di persone che dicono evviva che mi faccio la casa al mare. Ed è, attenzione, la stessa cosa che sta succedendo con Uber e con quei servizi lì. Ed è già successa, e se guardate al di là dell'oceano e leggete gli articoli più nuovi, siamo già alla fase 2, quella in cui i taxi sono in parte rimasti a casa. Quelli che sono rimasti si sono messi a lavorare con Uber, e Uber, che nei posti dove è già forte, ha abbassato a un quarto i salari, la distribuzione dei viaggi rispetto a quelli che era nella fase delle vacche grasse. Per cui oggi siamo già con i tassisti Uber, quelli che sono dipendenti, ma in realtà non sono dipendenti perché non c'è un contratto, che sono già in piazza, che sono quei forconi arrabbiati neri contro Uber, ma non lo erano un anno fa quando Uber, grazie al capitale di Ventura, diceva io vi farò guadagnare il quadruplo dei tassisti, e alla gente diceva le corse dovrebbero costare un quarto di quello che costano coi taxi e i taxi dovrebbero arrivare in 30 secondi, tutti contenti, che bravi questi, che bello. Si chiama pauperismo, cioè uno alla volta prendere un problema e dire questi qui guadagnano troppo, voi i taxi dovreste pagarli un quindicesimo, voi le case dovreste pagarle un millesimo, tutti contenti tranne chi costruisce le case. Solo che dopo le case è la volta dei dentisti, i dentisti costano troppo, le operazioni dentistiche, mettere un impianto dovrebbe costare 3 euro e via il capitale di Ventura in azienda, dopodiché dentistica, e piano piano tutta la società che pensa di diventare più ricca e di spendere di meno diventa tutta più povera, perché uno alla volta si perde il lavoro, si perdono i clienti perché loro hanno perso il lavoro, ed è una catena mostruosa, ed è un qualche cosa che è uno dei pericoli più grossi nei momenti di crisi economica come quello che stiamo attraversando noi, cioè questa spinta, questo eccezionale gradimento che possono avere delle istanze del genere. Questa cosa qui noi la possiamo fare un milione di volte in maniera più efficiente, invece che andare direttamente da chi la fa e dirgli guarda che tu tassista puoi lavorare in maniera più efficiente, per cui pian piano far calare i prezzi e lavorare più tu di più, e è molto molto distruttivo come meccanismo. C'è un pericolo, secondo me, ancora più grosso, e poi lascio la parola agli altri. Nel modo di vedere la realtà che in quell'articolo, diciamo, è venuto fuori, c'è una sorta di disconoscimento del valore del lavoro come formazione della persona. Vero. Cioè io dovrei essere contento del fatto che non faccio niente. Lui dice proprio letteralmente metto i piedi sulla sedia. Ed è una cosa che è una cosa, quella è ancora più grave. Noi con Digitali abbiamo sempre tentato di dire la rivoluzione digitale è qualcosa di cui tener conto per esserne coscienti ed esserne padroni e poterla dirigere nella giusta direzione, ma nessuno di noi si è mai segnato di dire che poi con la tecnologia digitale bisogna spazzar via quella che è a volte proprio il fondamento della persona, la dignità, certo, del lavoro. Il lavoro ha una dignità e dà dignità alla persona, è umana, connaturato, sia se sei un ingegnere informatico, un professore, un dentista, sia se sei quello che raccoglie le foglie nel giardino. Ecco la mia domanda, prego Francesco. La mia domanda infatti è l'assunto: 9 su 10 sono felici di abbandonare il loro lavoro, ma siamo sicuri di questo? A parole sì, se tu chiedi a 9 su 10 se sarebbero contente di stare al bar tutto il giorno, ti dicono di sì. Lo fai 2 giorni, il terzo giorno ti spari. E non ti spari, diventi alcolista. Secondo me, non ti spari, la maggioranza delle persone, sì, 9 su 10 secondo me mi sembra troppo. Secondo me buona parte delle persone, indipendentemente che siano il CEO di una grande azienda multimilionaria, piuttosto che non quello che porta via le foglie, come diceva prima Max, dopo qualche giorno a casa non resistono. È normale, perché basta vedere comunque anche in generale le persone in cassa integrazione, la cosa più grave è proprio il fatto di non lavorare, è quasi più importante quello del non guadagnare. Quante infatti persone che non lavorano conosci? Io conosco tante persone che non lavorano, che hanno la fortuna per un motivo o per l'altro. Io ne conosco parecchie e ti dico una cosa, che ricadono in 2 categorie: o trovano un lavoro che non è un lavoro perché non hanno bisogno, ma diventa un lavoro. Ad esempio, compro una barca a vela e voglio diventare il campione del mondo della classe XY, per cui la maggior parte dei miei giorni sono impegnati a acquistare le vele nuove, scegliere, fare l'allenamento, pulire la barca, cambiare, portarla in cantiere, fare la modifica, cercare l'equipaggio, eccetera. E allora rimangono delle persone. Se no diventano delle mozzarelle. Io conosco delle persone che non lavorano e non hanno ambizioni di questo tipo che le portano a fare delle attività che sono paralavorative, anche se non ne hanno bisogno per campare, diventano delle mozzarelle, diventano dei non uomini, diventano delle persone senza carattere, senza volontà. poi ci saranno le eccezioni. Oggi mi arriveranno le mail dell'ascoltatore XY che dice: mi ha insultato perché io non lavoro, non faccio un cazzo mattina e sera, ma c'ho due palle così, e va bene. Però non so se voi avete delle conoscenze che vanno contro. No, ma è quello che dicevo, appunto, è connaturato. Il lavoro costruisce la dignità dell'uomo, ma è fisiologico. L'uomo nasce per correre. L'uomo nasce per scappare dalla tigre coi denti a sciabola, per andare a caccia di brontosauro per mettere la bistecca in tavola la sera, per allevare i figli, per coltivare, prendere da mangiare e per trovare un posto a cui ripararsi. E quindi ha dei meccanismi che lo stimolano a fare queste cose e che se non le fa lo fanno stare male. Per cui io sono d'accordo che le condizioni di lavoro del minatore del Perù vanno migliorate, e anzi, se potesse non diventare minatore del Perù. Però questo lo devi fare quando ha 8 anni, che inizia a studiare, che inizia a fare un percorso, e intanto costruisce un robot che vada al suo posto, per cui a lui magari insegna a fare la manutenzione del robot che va nella mina nel Perù. Non dire che oggi lasciamo tutti i minatori del Perù a casa perché abbiamo pronto un computer e li lasciamo tutti a casa, perché quelli lì diventano alcolizzati o drogati. Ma infatti, o dei criminali. Franco, su questo ti volevo leggere un contributo che ho trovato ieri sera, che ho trovato molto interessante come contraltare a queste interviste di Page, che dice, poi vi dico chi è che dice queste parole: l'intelligenza artificiale sono la più grande minaccia per la sopravvivenza della nostra razza. Affidarsi ai computer è come invocare il demonio. Penso che dobbiamo essere molto attenti sulla questione. Sono sempre più convinto che tutti gli studi che vengono fatti sull'argomento, tutti gli esperimenti, debbano essere controllati da un organo supervisore, magari sia a livello nazionale che internazionale, solo per assicurarci che non facciamo nulla di davvero sciocco. Spiega Elon Musk. Elon Musk, certamente. Davanti al MIT. Elon Musk, questa è una riflessione che controbilancia fortemente quello che dice Page, cioè la mancanza completamente di una visione sociale, di un cambiamento senza un welfare state che cambia in correlazione a quel tipo di cambiamento lì. Per cui io mi allineo veramente a queste parole di Elon Musk, e poi per il resto avete detto tutto voi, però penso sia un contributo interessante di una persona che non sacrifica l'innovazione a fronte della società, ecco. Sono assolutamente. Elon Musk è uno dei più grossi. Poi tutte queste parole sono inquadrate all'interno di un discorso specifico sulla intelligenza artificiale. Elon Musk è uno dei più grossi critici della ricerca dell'intelligenza artificiale to cure, cosa di cui Google è, e i vari amministratori di Google, Page, Brin, eccetera, sono grandi propugnatori. Ma è come non vedere saggezza in queste parole? Ovviamente c'è est modus in rebus, dire dovrebbe esserci una moratoria sullo sviluppo dei robot autonomi e dell'intelligenza artificiale vuol dire solo consegnare la ricerca, questo tipo di ricerca, nelle mani del mercato nero o entità al di fuori della legge, sarebbe addirittura peggio. Però che ci fossero dei modelli di controllo, come auspica Elon Musk, è assolutamente auspicabile. E l'altro articolo sul Financial Times riguarda Facebook, e ci si avvicina per certi aspetti, no? Cerca molto, sì. Anna Kuchler cerca di capire quello che è il nuovo DNA di Facebook, l'evoluzione, quella che è la nuova mission di Facebook, che non è più semplicemente quella di far comunicare tutte le persone in maniera più semplice possibile, ma quella proprio di creare quasi uno stato autonomo di Facebook, una nazione che arrivi addirittura a provvedere i servizi infrastrutturali di base, con anche possibilità di portare anche del bene. Però anche questo è un meccanismo che andrebbe controllato e verificato e sottoposto a dei controlli. Dice: sì, oggi su Facebook comunichiamo con chiunque, oggi col progetto Internet.org accedono in Zambia a Facebook a costo zero, semplicemente attraverso accordi con i vari provider telefonici di linee su piattaforme mobile. Ed è più facile, dice, sarà più facile per un cittadino dello Zambia e più conveniente cercare un consulto medico attraverso Facebook piuttosto che andare dal medico nell'ospedale dello Zambia, perché gli darà delle garanzie ben diverse in termini di salute, eccetera. E fa tutta una serie di paragoni del genere. Dice: se deve mandare dei soldi a un parente lontano potrà farlo attraverso Facebook invece che attraverso, e insomma con delle connotazioni di nuovo da nuovo ordine mondiale che fanno venire abbastanza i brividi anche qua. il concetto. Ma c'era il discorso sulla cura dell'aracnofobia che citava all'inizio dell'articolo, era molto interessante, nel senso che addirittura sviluppare delle forme di cura via remoto per alcuni tipi di malattie, come in questo caso si citava l'aracnofobia, in cui c'era questo training attraverso, se non sbaglio, l'Oculus Rift, in cui la persona viene abituata alla presenza dei ragni attraverso la realtà virtuale, poi dal vivo il cervello rievoca la situazione, anche se vissuta solo virtualmente, riesce ad applicare un atteggiamento di calma che altrimenti non avrebbe avuto. La riflessione della giornalista, secondo me, è molto interessante in termini proprio pratici. Le persone sono su Facebook, il punto di riferimento, penso, di tutto l'articolo è proprio questa frase qui, e lì si sta sviluppando una nuova economia interna nelle relazioni tra le persone, perché l'uomo, diciamo, come connotazione geografica ha sempre posto dei confini, e quindi abbiamo sviluppato economie nazionali, e l'unirsi tra di noi ha sempre richiesto dei tempi importanti, guarda l'Unione Europea. E in un momento storico in cui le popolazioni si sono unite senza confini in termini prettamente geografici e possono sviluppare un'economia che possa essere trasversale dalla Cina agli Stati Uniti, ecco che secondo me lì, se, come dice Musk, ci possa essere realmente una fase di controllo, potrebbe esserci veramente tanta creatività nello sviluppare un diverso modo di guardare alle relazioni umane. Io sono molto curioso di vivere i prossimi decenni per guardare tutto questo da protagonista, perché praticamente di possibilità ce ne stanno veramente tante. Se continui a parlare qui su Digitalia, lo guarderai da dietro le sbarre. Secondo me si infilano tutti in galera. Però guarda, io non lo so, quando parlano di nazione Facebook come una nazione, quando nell'altra intervista, l'ultima parte addirittura dell'intervista a Larry Page, diceva: le aziende sono riuscite ad arrivare a fare quello che i singoli cittadini non sono in grado di fare oggi col capitalismo, il capitale, ma oggi arriviamo addirittura al limite di quello che le aziende da solite riescono a fare, per cui dobbiamo fare come dei conglomerati di aziende, come stiamo facendo noi, no? Abbiamo acquisito Nest, ma la lasciamo indipendente sotto la nostra ala, abbiamo preso questo, e ci vorrebbe quasi una specie di governo delle corporazioni, ecco. In mente cose tipo il parlamento delle corporazioni, il governo delle corporazioni che ci sono nei film di fantascienza, cioè tutti i lati peggiori. Poi non dite che non ve l'avevo detto, citato decine di racconti. Assolutamente, i lati peggiori e quelli più terrificanti dei sono racconti. Quelli in cui ci sta il governo delle multinazionali. Bravo, vengono questa fuori. Questa sarebbe comunque una cosa che rallenterebbe lo sviluppo e bloccherebbe tutto subito istantaneamente, quindi potrebbe essere una cosa buona. A dici farli diventare burocratizzati. Sì, un bel parlamento in cui cioè Google deve autocontrollarsi tutto, un paio di camere, anche tre camere, così tutto si ferma. Potrebbe essere effettivamente la soluzione. Tutto questo come mi sembra una decisione, toglierebbero la fibra ottica a quei terroni degli italiani. Esatto, soprattutto quei terroni dei milanesi. Senti una cosa, adesso tu dimmi, no? Tu immaginati Larry Page. Hai presente già com'è, un po' bianchiccio, con gli occhi segnati, la pelle un po' chiara, i capelli grigi, la voce spianata, probabilmente c'è un polipo, le corde vocali, qualcosa del genere, parla tutto così, un po' come un robot. Al congresso, al Parlamento delle corporazioni, a un certo punto il suo sedile volante si alza e fa un discorso tipo senatore Palpatine, dopodiché gli mettono una bella casacca nera sulla testa, inizia la musica, pa pa pa pa pa pa pa. È finita. Abbiamo già la timeline in tutta spianata. Dimmi che non ha il physique du role Larry Page. Poi dici perché quei due o tre ricconi non vogliono andare su Marte. Ecco, beh, voilà. Vabbè. Mamma mia, va bene. Comunque è delirio di onnipotenza, secondo me. L'unico termine che mi viene in mente relativo a entrambe le aziende è questo: delirio di onnipotenza. Mica è la prima volta. Ma un po' di delirio di onnipotenza. Ecco, bravo, forse questo è una bella connotazione. Oggi abbiamo paura, abbiamo avuto i deliri di onnipotenza degli uomini, sono quelli che proiettano in avanti il genere umano, non c'è dubbio che ci voglia un po' di delirio di onnipotenza per dire non mi limito a fare questo, ma voglio portare tutto il genere umano avanti, non c'è dubbio. Nel secolo scorso siamo ancora oggi a studiare, anzi a preoccuparci, perché quelli col delirio di onnipotenza erano seduti nelle stanze dei vari governi, hanno detto faccio tutto io, ed è successo un grande casino. Abbiamo messo a punto una serie di meccanismi che bloccano questo e che dovrebbero prevenire questo sotto forma di leggi, leggine, meccanismi, compensazioni delle varie costituzioni, rami esecutivi, giudiziari, legislativi che si bloccano a vicenda. In questo noi in Italia siamo iper specialisti per fare in modo che gli stati siano assolutamente paralizzati, e ci ritroviamo però scoperti da un altro punto di vista con questi stati ultra paralizzati e queste grosse compagnie oramai sovranazionali più potenti degli stati, e che iniziano a fare gli stessi discorsi. Nei prossimi secoli il delirio d'onnipotenza ce l'avranno questi personaggi qui, i vari Larry Page, Mark Zuckerberg eccetera, e i meccanismi di blocco non esistono. Per cui invece che continuare a preoccuparci per il nuovo fascismo, il nuovo comunismo, una nuova dittatura che arriverà da questo stato, da quel politico, da quell'altro, dovremmo iniziare a pensare che le dittature del futuro arriveranno da questo tipo di individui, che quando hanno le risorse, l'ambizione e il delirio di onnipotenza, come dice Giulio, non avranno niente che possa fermarli. Si parla di pageismo, zuckerberismo eccetera. Può essere un neologismo, e tu potresti essere ricordato in un angolino di Wikipedia come quello che ha coniato il termine per la prima volta. Anzi, fossi in te andrei a scrivere adesso le pagine su Wikipedia. La pagina pageism. No, la cosa è, tornando al delirio di onnipotenza, è vero come dicevi tu, poi possiamo cambiare se volete il discorso, ma è vero quello che dicevi tu, che ha guidato l'evoluzione del genere umano, possiamo dire, e proprio il volere essere, voler andare avanti è stato molto importante. Il problema qua è che hanno le possibilità di raggiungerlo, è questo che ci fa paura oggi, sì, o sbaglio? Cioè, hanno le possibilità e non hanno limiti, non hanno freni. Va bene, e invece Tim Cook, ditemi un pochino cosa vi ha lasciato a voi questa occasione in cui è, secondo qualcuno, finalmente venuto fuori, ha fatto coming out e ha dichiarato la sua omosessualità come un mezzo di, come dire, ha detto proprio, voglio citarlo per non, ecco, non mi considero un attivista, ma voglio fare un qualche cosa che possa essere, esattamente come l'attività, come le azioni di un attivista, di beneficio per altre persone. E quindi dichiaro di essere felice di essere gay e di avere e di vederlo come un dono che mi ha dato il Signore. Ha risuonato qualcosa di positivo o di negativo? Avete qualche commento su questa uscita, che mi rendo conto di tech, di tecnologico abbia molto poco, ma è oggi l'amministratore delegato dell'azienda del panorama tecnologico più di successo, per cui insomma forse qualche ripercussione o qualche nota è degno di avere. Ma io, forse una delle riflessioni più interessanti che ho letto a riguardo è proprio un non impatto tra virgolette che ha avuto. Ne hanno parlato in fondo rispetto all'eco che potrebbe avere una notizia del genere, molto poco. Molti dei commenti che ho letto sui social sono andati più su commenti sull'iPad, l'iPhone, piuttosto che le sue preferenze nel fare questo tipo di dichiarazione. Ho letto molti, e questo dimostra forse l'unico fondamentalismo nella società occidentale che ancora resta abbastanza importante, che se ne dica, che sono alcune visioni religiose che se la sono molto presa per la citazione di Dio all'interno di questo discorso. Ah, sì. Per cui ecco, quello che ho visto io è un panorama di una società occidentale che forse sta superando lo spettro della paura del diverso, del gay, che diverso non è, che però ancora fa fatica a inserire questo tipo di dichiarazione all'interno di un contesto normale. Però insomma il palinsesto dei commenti mi è sembrato abbastanza positivo. A me piacerebbe quello che dici tu, a me piacerebbe un mondo dove un'uscita del genere viene accolta con assoluta indifferenza, perché è una variabile normale, dovrebbe essere considerata una variabile neutra. Però mi rendo conto che da una parte ci possono essere ancora strati di popolazione che lo vedono come, e lo vedo come può essere un buon esempio. Quello che a me ha fatto più piacere è un cambiamento personalistico della figura di Tim Cook. Da quando è mancato Steve Jobs, che aveva una caratterizzazione pubblica molto netta, pur essendo una persona decisamente attenta alla propria privacy, la persona, la guida di quell'azienda era una persona ben conosciuta nei suoi pregi, nei suoi difetti, nella sua carattere, nella sua ambizione, nel suo modo di porsi. E questo faceva, secondo me, è importante oggi, proprio in questo periodo di grosso squilibrio, di questa onnipotenza delle corporazioni, di cui tutti abbiamo bisogno, perché creano il nostro mondo, creano il nostro futuro e hanno in mano il nostro futuro. Riuscire a capire come e chi sono le persone ai vertici ci permette anche forse di capire quelli che sono i rischi, quelle che possono essere le nostre aspettative dal futuro. Ecco, da quando è scomparso Steve Jobs, Apple è stata per molti versi, per il pubblico e per noi commentatori soprattutto, una specie di mostro senza testa, dove c'era ai comandi questa specie di robot coi capelli grigi che era stato messo sul ponte di comando dal vecchio leader, da Steve Jobs, perché persona efficientissima che è riuscita a organizzare benissimo la macchina di approvvigionamento e distributiva, è quello che è riuscito a mettere in riga i cinesi, a fargli costruire delle cose che funzionavano bene, è quello che è stato riuscito a fare economia dove nessun altro ci riusciva. Ma che cosa avesse nella testa questo robot? Nessuno era in grado di capirlo, anzi qualcuno poteva addirittura avere, non la pensare, ma avere la sensazione che non ci fosse molto in questa testa, che fosse semplicemente un bravissimo esecutore con nessun carattere se non degli schemi e delle procedure operative. Per cui la macchina Apple era come spersonalizzata. Ecco, oggi secondo me la macchina Apple è un pochino più naturale. Oggi la macchina Apple ha alla guida di nuovo un essere umano di cui capiamo che possiamo approcciare, con cui possiamo condividere una natura umana. E non lo so, ho la speranza che questo sia l'inizio di tutto un cambiamento in questo tipo di approccio, in modo da capire come determinate scelte dell'azienda vengono dettate, esattamente come quelle che abbiamo sentito prima di Larry Page, che sono dettate da come lui vede il mondo, da quello che sono le sue aspettative, la sua voglia di proiettare in avanti il genere umano. Come era per Steve Jobs la stessa cosa, la voglia di costruire un armadio che avesse anche il retro perfetto, perché la vita degli uomini deve essere migliorata da degli strumenti, eccetera eccetera, le ricordiamo. Ecco, è che anche qui questi oggetti, i nuovi oggetti, riprendono ad avere un'anima, perché quello che tira le fila dietro a tutta la macchina che produce questa tecnologia, queste cose che cambiano la nostra vita, ha un'anima. Ecco, oggi finalmente, secondo me, riusciamo a intravedere di nuovo un'anima dietro a Apple. Non so se siete d'accordo su questo. Assolutamente d'accordo, anche perché Cook è una persona che è stata anche abbastanza presa di mira e criticata per quanto riguardava l'atteggiamento durante i keynote, non aveva inflessioni tonali, restava sempre abbastanza estrapolato dal contesto, era invisibile, forse anche per dare più lustro, più visibilità all'azienda che alla persona. Forse in un momento di sicurezza in cui si è sentito di aver preso le redini anche proprio lì all'aziendale, di quella che Apple, sì, può aver sovrapposto anche la sua immagine. Quindi il momento favorevole di Apple ha favorito questa cosa, non l'ha fatto fino a oggi, l'ha fatto oggi perché i risultati danno fiducia, danno confidenza, danno anche mi ricordo aver letto un commento di John Gruber, forse, che quando il titolo è arrivato a $107, $108 un paio di settimane fa, diceva: e beh, forse qualcuno inizia a pensare che Steve Jobs non abbia messo la persona sbagliata al comando, non so se... E probabilmente è questo che gli ha dato più la forza di venire fuori. Prima probabilmente c'era anche dell'insicurezza da parte sua. Sì, i numeri dell'ultimo trimestre sicuramente gli danno ragione, così come il fatto che siano usciti i suoi prodotti, certo. L'iPhone 6 Plus e l'Apple Watch sono, certo, sicuri, probabilmente anche Apple Pay, che continua a essere dimenticato, eccetera, sono evidentemente i suoi prodotti. Quindi in questo momento si è levato di dosso il peso di Steve Jobs e ha potuto anche a questo punto dire: non sono diverso anche in tante cose, questa anche come persona, e voglio esternare quello che è la mia persona in una maniera pubblica, cosa che invece Steve Jobs non faceva, di esternare la sua personalità, se non tramite leggende, cose del genere. Quindi anche in questo senso si è dato un'umanità che... ha iniziato un accenno, poi speriamo che continui, perché oggi sappiamo che c'è un'anima dietro che ha delle caratteristiche, la voglia di condividere, di migliorare eccetera, ma sarebbe bello che questo continuasse anche nel modo di condurre l'azienda, di presentarsi al pubblico, che trasparisse qualcosa di più di quello che è il futuro dell'umanità visto dal nuovo capo di Apple, che non sia solo gadgettini ed efficienza eccetera, no? Perfetto, direi che siamo tutti d'accordo, no? Nel senso, mi sembra che avete voglia di passare ai gingilli del giorno. Passiamo ai gingilli del giorno. Chitaccia acconsente. Signore e signori, i gingilli del giorno. Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani, lo vedete, i produttori esecutivi ogni tanto ci chiedono: ma il libro, ho letto il libro, ho sentito il pezzo, sono andato al convegno, ho comprato il libro. Questo è spesso frutto dei gingilli del giorno, l'angolo in cui i digitaliani vi consigliano un qualche cosa che ha colpito la loro attenzione, qualche volta stravolta la loro esistenza, la maggior parte delle volte una giusta via di mezzo. Giulio, vuoi cominciare tu? Assolutamente. Allora, questo gingillo è parte del pacchetto di applicazioni di Evernote, si chiama Penultimate, è un'applicazione standalone per iPad che serve per essere sfruttata principalmente con i pennini touch ed è un compendio perfetto quando vi trovate in giro per riunioni e dovete magari mandare qualche schizzo, dovete far capire meglio qualche concetto a chi deve ricevere i vostri appunti, o anche per voi stessi se dovete far vedere qualcosa a un cliente o memorizzare qualcosa, espandendo un pochino quello che potete scrivere solamente a parole. Per cui funziona veramente molto bene, perché potete utilizzare vari pennini, varie profondità, potete fare tutto quello che è necessario per prendere degli ottimi appunti direttamente sulla vostra tavoletta. Per cui Penultimate è gratuita, potete fare vari taccuini con i vostri vari appunti e vi estende moltissimo le possibilità di Evernote, tutto integrato chiaramente, e ritrovate tutti i vostri appunti in PDF, via mail, come volete. Fantastico, bellissimo. Grazie Giulio, Penultimate di Evernote. Max, vuoi fare tu un gigillo? Pronto? Io in realtà sì, ci sono. In realtà ne ho due, perché uno l'avevo già pensato per l'occasione, leggendo l'intervista appunto che abbiamo lungamente discusso con Larry Page, ed è un libro interessante su cosa in realtà Google sa di noi, visto con un occhio veramente un po' tecnico ma estremamente dettagliato, che fa riflettere appunto su questo mondo nel quale le nostre informazioni sono sempre di più in mano diciamo a pochi che le governano. Si chiama Googling Security, è un testo in parte tecnico ma che ha comunque una introduzione, una leggibilità anche da parte dei non addetti ai lavori, se ci si ferma diciamo agli aspetti proprio quantitativi delle informazioni che vengono raccolte, del modo in cui vengono usate da Google. È una lettura molto interessante per chiunque abbia a che fare con la rete in maniera quotidiana, penso ormai per la quasi totalità diciamo del mondo occidentale. E poi, sempre in riflessione e meditazione su quello che erano i contenuti dell'intervista, abbiamo discusso e fatto delle riflessioni sul significato del lavoro. C'è un, credo, non so se è un gingillo ripetuto, è un testo che ho citato spesso di fantascienza di Jack Williamson, si intitola, in italiano viene stato intitolato Gli Umanoidi, ma il titolo inglese è molto più chiarificatore, che infatti è With Folded Hands, con le mani incrociate, e racconta ovviamente in un'estrapolazione fantascienza scientifica appunto cosa succederebbe in un mondo futuro nel quale i robot prendono diciamo la lettera, la prima legge, quella famosa di Isaac Asimov, e tendono appunto a far restare gli umani con le mani incrociate, with folded hands, un capolavoro della fantascienza di Jack Williamson, che letto in controluce a questa intervista può far riflettere. Ne mandiamo una copia anche alla Refage, Max. Forse se la leggesse potrebbe fare anche lui qualche riflessione. Grazie Max, i gingilli del professore sono sempre puntuali, è la rubrica dove il prof dà il meglio di sé grazie alla sua vasta conoscenza del panorama letterario fantascientifico. Però una volta ti interrogo su Leopardi, occhio prof. Guarda, farò del mio meglio. Francesco, gingillo del giorno. Eccomi qua, anch'io un gingillo e mezzo, dai. Il gingillo che avevo pensato per oggi è un fumetto, una cosa un po' leggera, visto che sapete tutti che io sono uno sviluppatore web come lato tecnico della mia esistenza lavorativa, e so che tanti che ci seguono comunque si dilettano, sviluppano più per lavoro, più per hobby, eccetera, siti, e esiste questo fumetto che viene pubblicato tutte le settimane su webdesignerthepot.com, disegnato da Jerry King, che si chiama Comics of the Week, che racconta sono piccole strisce, singole immagini che raccontano dei casi dedicati al mondo del web design, web development. È molto simpatico, soprattutto per chi come me appunto ci lavora in questo settore. Quindi webdesignerthepot.com, trovate tutte le settimane i Comics of the Week. E invece il mio secondo gingillo, ecco, il gingillo e mezzo, fantastico. Uno e mezzo. È un gingillus ripetutus che però secondo me vale la pena di ridarci una revisione per chi non l'ha ancora fatto, che è Person of Interest, la serie televisiva della quale oggi non abbiamo parlato, ma visto che fra le notizie della settimana c'è l'uscita di un'applicazione di che si chiama Samaritan, che controlla il fatto se la gente è in procinto di suicidarsi o meno. Dalla, in più dalla ci sono timeline notizie di Twitter. Sì, sì. Esatto, ci sono in più notizie di esperimenti fatti a Londra di monitoraggio tramite telecamere di zone di risse, eccetera. Beh, insomma, io me la guarderei questa serie perché dice molto di più di... mi sembra più un documentario che una serie fantascientifica. Sì. Mi fa veramente paura. Poi se lo sono in gamba, perché se lo segui più o meno in diretta riescono a cogliere a volte le notizie di cui parliamo noi, le notizie della settimana, le ritrovi nella puntata di Person of Interest di qualche settimana dopo. È abbastanza curioso. Io non so se il genio che ha fatto uscire l'applicazione Samaritan ha preso ispirazione da o viceversa, ma quindi è terrificante. Se è un genio o se è un cretino. Va bene, gingillo ludico dopo tutte queste cose. Cose tanto impegnate, gingillo videoludico, se siete vecchi come me o se siete giovani e volete riscoprire, se volete fare un po' di quello che si chiama retro gaming, scoprire come giocavano coi videogiochi ai miei tempi quando ero giovine e si andava al bar con le 100 lire per giocare, dovete precipitarvi nel mondo degli arcade. Ma se volete farlo o conoscete qualcuno che ha qualche collezione di questi vecchi cabinet con le varie ROM, oppure potete usufruire di questa nuova iniziativa dell'Internet Archive, archive.org, dove trovate questa collezione funzionante di ROM di moltissimi videogiochi che si trovavano a quei tempi nei bar. Siamo, non dico proprio all'alba, ma comunque agli albori della tecnologia videoludica. Sono più di 900 giochi, tutti in ordine alfabetico, con la ROM funzionante, e che potete giocare direttamente attraverso il browser con questo interprete che gira direttamente nella pagina web, per cui voi vi scegliete uno dei giochi, lo cliccate e dopo pochi secondi di caricamento vi parte il game direttamente nella finestra del browser. Io ho avuto qualche problemino con Safari, ma con Google Chrome e con Firefox funzionavano benissimo, per cui se volete recuperare i vecchi Ghouls and Ghosts, i vecchi Outrun, Bubble, chi più ne ha più ne metta, andateli a cercare e magari scoprite anche la storia di questi vecchi arcade in giro per Wikipedia. The Internet Arcade su archive.org, l'ultimo gingillo del giorno per questa puntata 257. Okay. Ed eccoci alle dolci note del jazzino. Figurati, è tra una la prima cosa. Oh. Io l'ho detto ormai perché il personaggio è questo. Il personaggio è quello, è certo. Ormai un po' di familiarità. È una gag far partire il jazzino e commentare la sigla. Benissimo, è come se a metà di un film del terrore, no, a profondo rosso, parte la musica, vedi la lama dell'assassino che tira fuori, esce fuori dalla colonna dietro a cui si esconde l'assassino. E la vittima, che è lì ignara, si gira verso la telecamera e dice: ma proprio sta musica di merda, mette qualcosa, che mi cago sotto e mi dovete mettere pure la musica che mi fa la strizza. Vabbè, è la stessa cosa, però va bene, oramai è una gag e ci sta. Sono le note finali, quelle in cui ci congediamo. Mi raccomando, digitalia.fm, consigliatelo anche ai vostri amici. Ci sono tutti i modi in cui potete ascoltare sul vostro dispositivo mobile, sul vostro telefonino, nel browser, col computer, in diretta, in differita, quando volete voi. Potete interagire attraverso Twitter, insomma trovate tutto quello che volete, portate i vostri amici, ne abbiamo bisogno di nuove orecchie fresche per che cosa? Per studiare quello che ci arriverà dalla tecnologia, come cambierà la nostra vita, quello che sarà il nostro futuro e quello che ci aspichiamo non sia, tutte quelle che sono le cose belle, le cose brutte, quello da cui ci dobbiamo guardare nella vita di tutti i giorni, nella vita sociale, nella scuola, nell'educazione, nella politica. Questo è il Focus di Digitalia, noi lo facciamo tutti i lunedì sera in diretta, vi aspettiamo e poi dalla mattina successiva trovate come al solito la puntata pronta. E allora, per ora, dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo, un arrivederci alla prossima settimana da Franco Solerio. Dallo studio cittadino di Avellino un saluto da Massimo De Santo. Una buonanotte dallo studio romano da Giulio Cupini. E una buonanotte anche dallo studio milanese Francesco Facconi. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.